pietà sentite. Ma no, dico non voglio fermarmi un solo istante. Se parti, anima mia, nel punto stesso, io vi trafiggo il sen. A questo accesso